24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la nostra intervista esclusiva al commissario europeo per le politiche regionali Johannes Hahn, che annuncia il via libera entro febbraio ai fondi comunitari per la Liguria. Vi aggiorneremo sulle aste dei titoli spagnoli e francesi e più in generale sulla crisi dell'Eurozona. Vi spiegheremo come l'Italia sia nel continente uno dei paesi più vecchi, con il minor tasso di giovani attivi. Infine, una curiosità dalla Gran Bretagna. In apertura all'intervista di 24 ore in Europa, a chiusura del tour italiano del commissario europeo alle politiche regionali Johannes Hahn, che ai nostri microfoni annuncia entro febbraio via libera ai fondi europei per la Liguria. Lo ha intervistato Gigi Donelli. I was in Venazza. First of all, I have never seen such a Sono andato a Vernazza e devo dire che non avevo mai visto una devastazione così ampia e capillare. Non avevo mai visto un impatto così violento a causa di un'ondata di fango. Per quanto riguarda la richiesta di fondi all'Europa, nell'ambito del Fondo Europeo di Solidarietà, posso dire che già in dicembre abbiamo ricevuto il dossier molto ben formulato da parte del governo italiano, che ora il dossier è in fase di valutazione da parte dei nostri uffici, ma credo e spero che potremo avere una decisione definitiva entro la fine del mese di febbraio. Il disastro ambientale che ha investito la Liguria alla fine del mese di ottobre è chiaramente un fenomeno naturale di portata regionale e la stima complessiva dei danni si attesta a poco più di 700 milioni di euro. Ecco, il tetto fissato per accedere al Fondo Europeo di Solidarietà prevede un massimo del 2,5% di questa cifra, che corrisponde a uno stanziamento massimo di circa 18 milioni di euro. E sono soldi che possono essere spesi per interventi di ricostruzione su opere pubbliche. Positive le aste dei titoli di Stato spagnoli e francesi. In programma ieri, Madrid ha venduto 6,61 miliardi di bond con rendimenti in calo. Bene anche Parigi, che ha collocato 8 miliardi di titoli nella prima asta di bond a medio-lungo termine dopo il declassamento di Standard & Poor's. Berlino e Parigi lavorano a un documento in 6 punti in vista del vertice europeo del 30 gennaio. Secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, il documento prevede un nuovo fondo europeo per la crescita e la competitività e nuove regole in materia di energia, finanza con la Tobin Tax e l'armonizzazione delle imposte sul reddito delle imprese. Inoltre, Merkel e Sarkozy propongono che le banche non siano prematuramente caricate con le regole di Basilea 3. Una convergenza ampia praticamente su tutti i temi, frutto di una cooperazione perfetta tra Italia e Polonia, lo ha affermato il premier polacco Donald Tusk al termine dell'incontro con il premier italiano Mario Monti. Abbiamo avuto una convergenza di opinioni su tutti gli argomenti, le misure anticrisi e antidisoccupazione e per la crescita, il mercato unico, e anche sul fatto che l'Unione 27 debba essere un organismo politico di importanza chiave, ha detto Tusk. Il ventesimo di rientro del debito rappresenta un impegno molto importante per un paese come il nostro, che ha un buon 60% di eccesso oltre al 60% del trattato di Maastricht. È un impegno che l'Italia ha già assunto, quindi siamo nella classica situazione di pacta sunt servanda, lo ha affermato il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi. L'euro si troverà in una forma migliore nel 2012, ad affermarlo il presidente della BCE Mario Draghi, che parla di progressi nell'affrontare le due cause primarie della crisi, la mancanza di disciplina fiscale e di riforme strutturali, con convinzione e determinazione. Intanto, secondo la BCE, l'ulteriore sviluppo degli strumenti europei per la stabilità finanziaria dovrebbe rendere più efficace il funzionamento del fondo di salvataggio IFSF e del ISM. Per la Francoforte ora è necessario rendere operativi urgentemente questi strumenti. Siamo alle borse, il FTSE MIB ha chiuso a più 2,45% facendo di Piazza Affari la migliore borsa continentale. Sentiamo. Si allenta la tensione sui titoli di Stato europei, i conti delle banche americane vanno meglio del previsto e le borse europee hanno festeggiato con rialzi fra l'1 e il 2%. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB ha guadagnato il 2,5%, col rialzo di ieri si sono annullate le perdite accumulate da inizio anno. Il merito è soprattutto dei titoli bancari, che hanno festeggiato il buon andamento delle aste sui titoli di Stato di Francia e Spagna. BPM ha guadagnato il 17%, il Banco Popolare il 14%. Bene anche Unicredit, più 13%, mentre continua l'aumento di capitale che ha portato diversi fondi di investimento a prendere posizione sul titolo. Ultime in ordine di tempo, Capital Research, che è entrato col 2,5%. Le vendite si sono invece concentrate sui settori regolamentati, che rischiano di essere penalizzati dal decreto liberalizzazioni. Snam in particolare ha ceduto il 2,2% nella prospettiva che la società controllata da Eni venga separata dal cane a sei zampe. Giù anche Enel, che ha ceduto, come Snam, il 2,2%. Guido Maurino, da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non prevediamo né escludiamo qualsiasi ulteriore misura contro l'Ungheria. Ci auguriamo che queste questioni possano essere risolte. Così una portavoce della Commissione commentando la decisione di Bruxelles di aprire 3 procedure di infrazione contro il paese magiaro. Abbiamo l'indice di vecchiaia più alto in Europa dopo la Germania. I pochi giovani che abbiamo spesso rinunciano a studiare e lavorare. Una fotografia con molte ombre, quella del rapporto Istat Noi Italia. I dati sono relativi al 2010 e non ci raccontano nulla di buono. Partiamo dai giovani. Sono 2 milioni gli italiani fra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Li chiamano NEET, dall'inglese Not in Education, Employment or Training. Insomma, non fanno niente, ci hanno rinunciato. Parliamo del 22,1% della popolazione giovanile, ben più di un giovane su 5, dato che sale al 25% per le donne. Non vanno a scuola o all'università e non sono inseriti in alcun circuito formativo. Ma non lavorano nemmeno, perché di questi tempi trovare un impiego non è cosa semplice. Nessuno dei paesi dell'Eurozona fa peggio, solo la Bulgaria se consideriamo invece l'intera Unione Europea. E ancora sui giovani, la quota degli italiani fra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato gli studi senza conseguire un titolo di scuola media superiore è al 18,8%, quando la media UE pare al 14%. Ci collochiamo così fra i paesi europei con la quota più alta, alle spalle solo di Malta, Portogallo e Spagna. Pochi giovani e nulla facenti, ma anche molti anziani in Italia, per la precisione 144,5 ogni 100 giovani. In Europa solo la Germania presenta un indice di vecchiaia più alto. La regione più anziana è la Liguria, la più giovane è la Campania. E non ci sono molte speranze che il trend cambi presto. L'Italia si colloca fra i paesi a bassa fecondità, con 1,4 figli per donna, con un'età media al parto che sale a 31 anni. Nel 95 era di 29 anni e mezzo. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Novità da Strasburgo per il riciclo dei rifiuti elettronici. Servizio. Saranno molti di più i frigoriferi, i telefoni, i gadget che saranno raccolti e riciclati in Europa. I nuovi obiettivi ambientali sono stati infatti approvati dal Parlamento europeo, che ha dato il via libera alla nuova legge continentale, approvandola in seduta plenaria a Strasburgo a larghissima maggioranza. Il nuovo testo aggiorna una direttiva del 2003 ed offrirà ai consumatori la possibilità di restituire i piccoli rifiuti elettronici ai rivenditori di grandi e medie dimensioni, dove dovranno essere installati centri di raccolta. Entro il 2016 si dovranno raccogliere 45 tonnellate di rifiuti di prodotti elettronici per ogni 100 tonnellate messe sul mercato nei 3 anni precedenti. Entro il 2019 la cifra dovrà salire al 65%, o in alternativa si potrà raccogliere l'85% dei rifiuti di materiale elettronico prodotto. Il trattamento previsto dal nuovo testo permetterà il riciclaggio di materie prime preziose, a cominciare dall'oro contenute nei circuiti elettronici. Inoltre ridurrà l'incentivo all'esportazione illegale dei rifiuti. Gli Stati membri avranno così 18 mesi per trasporre le disposizioni nella legislazione nazionale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Gran Bretagna i giudici hanno deciso che il tradimento è una circostanza attenuante in un processo per omicidio. Sentiamo. Un'Europa testa in giù, verrebbe da dire, almeno stando alla sentenza del massimo rappresentante del potere giudiziario della Gran Bretagna. Le corna, ha stabilito infatti, sono una circostanza attenuante nella vecchia cara Inghilterra. La sentenza in questione riguarda un caso di omicidio. Un uomo di 45 anni del Berkshire aveva massacrato di botte e strangolato la moglie, 33 anni, in un impeto di odio allo stato puro, dopo che lei gli aveva spiattellato con abbondanza di particolari cosa aveva fatto con 5 altri uomini. Lui era stato condannato l'anno scorso all'ergastolo per omicidio, ma il giudice, deliberando in corte d'appello, ha decretato che ha diritto a un nuovo processo in cui il motivo per cui ha perso il controllo va rivalutato. Il governo laburista di Gordon Brown aveva eliminato l'infedeltà dalle circostanze attenuanti nel 2009. L'obiettivo, si era detto allora, era di porre fine alla cultura delle scuse tra gli uomini che uccidono. Ma, ha osservato il giudice, la realtà è altro. E, dice, la sua esperienza quotidiana in tribunale gli ha dimostrato che la fine di una relazione può provocare una furia irrazionale.